Ciao, sono Francesco, lavoro come freelance nel campo del copywriting, del giornalismo e non solo, e ovviamente, insomma, le mie attività in questo periodo sono un po' ridotte. Penso che questa possa essere un'occasione per leggere e ascoltare in senso ampio. Donald Barthelme, il più grande trionfo del Joker. Frederick andava a casa del suo amico Bruce Wayne quasi tutti i martedì sera. Tipicamente Bruce stava seduto nello studio a bere un bicchiere di qualcosa. Frederick entrava e si sedeva e si guardava intorno nello studio in cui c'erano molti trofei di passate imprese. Allora Frederick, che hai fatto di bello ultimamente? Qualcosa di particolare? No, Bruce, solo ordinaria amministrazione. Beh, è martedì sera e di solito il martedì sera qualcosa succede. Lo so, Bruce, altrimenti non sceglierei il martedì sera per venire qui. Vuoi che accenda la radio, Frederick? Di solito c'è qualcosa di interessante alla radio, o forse ti piacerebbe sentire un po' di musica con il mio hi-fi? La radio di Bruce Wayne era un modello speciale a onde corte con molte apparecchiature particolari. Quando Bruce l'accese ci fu una specie di strillo, e poi si ritrovarono ad ascoltare una stazione di Tokyo o qualche posto del genere. Sul muro sopra la radio era appeso il trofeo di un'impresa, una lunga lancia africana con la punta fatta in stagno. Dimmi, Bruce, che cos'è che stai bevendo? Chiese Frederick. Scusami, Frederick, è succo di pomodoro, ne vuoi un bicchiere? C'è qualcos'altro dentro o è soltanto succo di pomodoro? È succo di pomodoro con un po' di vodka. Sì, ne prendo volentieri un bicchiere, disse Frederick. Non troppa vodka, per favore. Mentre Bruce andava in cucina e preparava il drink, Frederick si alzò per esaminare più da vicino la lancia africana. Vide che sulla punta c'era una sostanza scura e rugginosa, probabilmente qualche raro veleno esotico, pensò. Che cos'è questa roba all'estremità di questa lancia africana? Chiese quando Bruce rientrò nella camera. Ah, oh, quello è Curaro, il più letale dei veleni del Sud America, affermò. Attacca i nervi motori e sta attento a non ferirti. Non c'è problema, mi bevo il succo di pomodoro liscio, disse Frederick, accomodandosi sulla poltrona e guardando fuori dalla finestra. Oh, c'è il simbolo del pipistrello proiettato sul cielo. Questo significa di sicuro una chiamata del commissario Gordon al comando. Bruce guardò fuori dalla finestra. Un lungo raggio di luce giallastra che culminava in un perfetto simbolo di pipistrello si stagliava nel cielo al tramonto. Te l'ho detto che il martedì sera di solito è una serata buona, disse Bruce Wayne. Appoggiò il suo bicchiere di vodka e succo di pomodoro sul pianoforte. Aspetta un momento che mi cambio, per favore. Certo, fai con calma, disse Frederick. A proposito, Robin è ancora ad Andover? Sì, disse Bruce. Verrà a casa per il giorno del ringraziamento, credo. Ho un po' di difficoltà col francese. Bene, non volevo interromperti, disse Frederick. Vatti a cambiare, io do un'occhiata a questa rivista. Dopo che Bruce si fu cambiato, i due andarono al garage, dove li attendevano la Batmobile e il Batplane. Batman stava canticchiando un'aria che Frederick riconobbe. Era il concerto di Varsavia. Quale prendiamo? Disse. È sempre difficile decidere quando la missione è vaga e indeterminata come questa. Facciamo testo o croce, suggerì Frederick. Hai una moneta da 25 centesimi? Chiese Batman. No, ma ne una da 10, dovrebbe andar bene, disse Frederick. Tirarono a sorte, testa per la Batmobile, croce per il Batplane. Venne testa. Bene, disse Batman mentre entravano nella comoda Batmobile. Perlomeno adesso potrai berti un po' di vodka. È sotto il sedile. Ah no, liscia, non la posso soffrire, disse Frederick. Premi il bottone sul cruscotto, disse Batman. Frederick premette il bottone e un pannello del cruscotto si spostò rivelando un piccolo bar con ghiaccio, bicchieri, acqua, soda, chinina, limoni, lime, eccetera. Grazie, disse Frederick. Posso preparartene una? Non mentre lavoro, disse Batman. C'è abbastanza chinina? Mi sono dimenticato di comprarla quando sono andato al negozio di liquori ieri sera. Ce n'è un sacco, disse Frederick. Assaporò il suo vodka tonic mentre Batman guidava con mano esperta la grande Batmobile nelle strade buie di Gotham City. Nell'ufficio del commissario Gordon, al comando di polizia, il commissario disse: Lieto che siate finalmente arrivato, Batman. Chi è questo signore con voi? Questo è il mio amico Frederick Brown, disse Batman. Frederick e commissario Gordon. I due si strinsero la mano e Batman disse: Dunque, commissario, che succede? Questo, disse il commissario Gordon. Posò il modellino di una nave sulla scrivania davanti a sé. Il pacco è stato portato da un fattorino indirizzato a voi, Batman. Temo che il vostro vecchio nemico, il Joker, sia di nuovo in libertà. Batman canticchiò una melodia particolare che Frederick riconobbe come la Rapsodia della Cornovaglia, che è sull'altra facciata del concerto di Varsavia. Disse Batman. Questa deve essere un'altra delle sfide del Joker a una gara di intelligenza. «L'olandese volante!» esclamò Frederick, leggendo il nome dipinto sulla prua del modellino. «Il nome di un famoso vecchio vascello fantasma! Che cosa può voler dire?» «Un indizio abilmente celato», disse Batman. «L'olandese volante sta qui probabilmente a indicare il commerciante di gioielli olandese Hendrik Van Voort, che arriva in aereo stasera a Gotham City con un carico di pietre preziose da consegnare ai clienti». «Molto acuto, Batman», disse il commissario Gordon. «Probabilmente non l'avrei capito neanche se ci avessi pensato 1000 anni». «Allora bisogna che ci affrettiamo all'aeroporto», disse Batman. «Qual è la strada migliore per andarci da qui, commissario?» «Beh, se fossi in voi, farei la 34esima strada fino al Monumento ai Caduti, poi prenderei a destra sul Memorial Drive fino a che non si sbocca sulla Gotham Parkway. Una volta che siete sulla Parkway, andate liscio», indicò. «Un momento», disse Batman. «Non si farebbe più in fretta prendendo la Dagan Expressway all'incrocio con l'undicesima strada e poi la circonvallazione nord fino alla Richardson Freeway? Non credete che si risparmierebbe tempo?» «Beh, è proprio la strada che faccio per venire al lavoro», disse il commissario. «Ma stanno costruendo altre due corsie sulla circonvallazione nord, perciò dovreste deviare per lo Strand, poi tagliare per la 99esima prima di tornare sull'Expressway. Allunghereste di 2 o 3 chilometri, disse. «Benissimo», disse Batman. «Prenderemo la 34esima. Grazie, commissario, non preoccupatevi di nulla. Vieni, Frederick». «Oh, a proposito», disse il commissario Gordon, «come se la cava Robin a Exeter?» «No, non è Exeter, è Andover», disse Batman. «Se la cava molto bene, ha qualche difficoltà col francese». «Ah, ne ho avuto anch'io», disse giovialmente il commissario. «Où est mon livre?» «Où est ton livre?» disse Batman. «Où est son livre?» disse il commissario indicando Frederick. «Tu sei là se passé en 1924», disse Frederick. «Beh, è meglio che alziamo i tacchi, commissario», disse Batman. «Il Joker, come sapete, è un tipo piuttosto insidioso. Vieni, Frederick». «Lieto di aver fatto la vostra conoscenza, commissario», disse Frederick. «Piacere mio», disse il commissario, stringendo la mano a Frederick. «Questo giovanotto ha un aspetto molto distinto, Batman. Dove l'avete trovato?» «È soltanto un amico», disse Batman, sorridendo sotto la maschera. «Di solito il martedì sera ci vediamo e beviamo qualcosa insieme». «Che fate, Frederick? Voglio dire, che fate per vivere?» «Vendo il Granello, un quotidiano molto diffuso, soprattutto nelle zone rurali», disse Frederick. «Ma io lo vendo proprio qui a Gotham City. Molti di quelli che oggi sono delle personalità da ragazzi hanno venduto il Granello». «Bene», disse il commissario Gordon accompagnandoli fuori dal suo ufficio. «Buona fortuna! Telefonez-moi un de ces jours!» «Sarà fatto», disse Batman, e si diresse rapidamente per la strada verso la Batmobile, che era parcheggiata in una zona riservata agli autocarri. «Possiamo fermarci un minuto lungo il tragitto?» chiese Frederick. «Ho finito le sigarette». «Ci sono delle Weissura nel cassetto», disse Batman premendo un bottone. Un pannello sul cruscotto si spostò, rivelando una stecca nuova di Weissura. «Solitamente preferisco le Kent», disse Frederick, «ma anche le Weissura hanno un buon sapore». «A me sembrano tutte uguali», disse Batman. «Molte delle presunte differenze tra le sigarette sono soltanto pubblicità, per quel che ne so io». «Non mi stupirei che tu avessi ragione», disse Frederick. La Batmobile filava lungo le buie strade di Gotham City, verso l'aeroporto di Gotham. «Accendi la radio», suggerì Batman. «Magari sentiamo le ultime notizie o qualcosa del genere». Frederick accese la radio, ma non c'era nulla di insolito. All'aeroporto di Gotham, il mercante di gioielli Hendrik Van Voort stava proprio scendendo dall'aereo della KLM quando la Batmobile irruppe sulla pista di atterraggio, salutata rispettosamente ai cancelli dalla polizia dell'aeroporto in uniforme grigia. «Beh, mi sembra tutto a posto», disse Batman. «C'è la macchina blindata che aspetta il signor Van Voort per portarlo a destinazione». «È un nuovo tipo di autoblinda, no?» chiese Frederick. Senza dire una parola, Batman balzò nella porta aperta dell'autoblinda e avvinghiò la figura spettrale che stava all'interno. «Questa è la risata del Joker», riflette Frederick. «L'uomo che sta dentro l'autoblinda deve essere il sogghignante clown del delitto in persona». «Batman, pensavo che l'indizio che ti avevo mandato ti avrebbe lasciato completamente in alto mare». «No, Joker, ho paura che questo mandi all'aria i tuoi piani. Ma non per molto, Batman. Io ti rimetterò con i piedi per terra». Con un rapido movimento, il Joker mandò l'autoblinda a fracassarsi contro il termine dell'aeroporto. «Gran Dio!» disse tra sé Frederick. «Batman ha perso i sensi. È spacciato!» «Hai sventato i miei piani, Batman», disse il Joker. «Ma prima che arrivi la polizia, io ti solleverò la maschera e scoprirò chi sei veramente!» Frederick rimase a guardare terrorizzato. «Gran Dio! Il Joker ha smascherato Batman. Ora sa che in realtà Batman è Bruce Wayne». In quel momento Robin, che in teoria doveva essere ad Andover a molti chilometri di distanza, atterrò con il Batplane sulla pista e corse verso il relitto dell'autoblinda. Ma il Joker, che stava sull'avviso, afferrò una corda calata da un elicottero che volava sopra di loro e venne rapidamente sollevato in aria. Robin si fermò presso l'autoblinda e rimise la maschera sul viso di Batman. «Salve Robin», lo salutò Frederick. «Credevo che tu fossi ad Andover. Ero là, infatti, ma all'improvviso ho avuto la sensazione che Batman avesse bisogno di me. E così, sono venuto qui col Batplane», disse Robin. «Come state?» Bene, disse Frederick, ma avevamo lasciato il Batplane in garage e giù alla Batcaverna, non capisco. Abbiamo due veicoli per ogni tipo, spiegò Robin, anche se generalmente la cosa non è risaputa. Con l'aiuto di Frederick, Robin portò Batman svenuto fino alla Batmobile. Tu riporta la Batmobile alla Batcaverna e io ti vengo dietro col Batplane, disse Robin. Va tutto bene? Un momento, disse Frederick. Non credi che dovremmo fargli bere qualcosa, un po' di brandy? Buona idea, disse Robin. Premi quel bottone sul cruscotto, è il bottone del brandy. Frederick premette il bottone e un pannello si spostò, rivelando una bottiglia di B&B e l'adatto numero di bicchieri. Niente male, disse Frederick sorseggiando il B&B. Quanto costa la bottiglia? Circa $8, disse Robin. Ecco, sembra che lo faccia rinvenire. Gran Dio, disse Batman. Che è successo? Ah, il Joker ha fracassato l'autoblinda e tu sei svenuto, spiegò Frederick. Salve, Robin. Che ci fai qui? Credevo che fosse a scuola, disse Batman. E infatti, disse Robin, stai bene ora? Te la senti di guidare fino a casa? Credo di sì, disse Batman. Che ne è stato del Joker? Se n'è andato, disse Frederick, ma non senza prima sollevarti la maschera mentre giacevi svenuto tra i rottami dell'autoblindo sfasciata. Sì, Batman, disse preoccupato Robin, credo che abbia appreso la tua vera identità. Gran Dio, disse Batman, se la rivela al mondo intero sarà la fine della mia carriera di nemico del crimine. Beh, è un problema. Tornarono preoccupati alla Batcaverna, pensando al problema. Più tardi, nello studio di Bruce Wayne, Frederick e Robin, che ora indossava l'uniforme tradizionale di Andover nei panni di Dick Grayson, il pupillo di Bruce Wayne, rimuginarono tra loro l'intera faccenda. «Mi domando che cos'è che spinge il Joker ad agire?» disse Frederick. «Voglio dire, quali sono le sue vere motivazioni?» «Consideralo a ogni livello di comportamento», disse lentamente Bruce. «A casa, per strada, nelle relazioni interpersonali, in carcere, c'è sempre una straordinaria contraddizione. È sudicio e ossessivamente pulito, appartato e disperatamente socievole, entusiasta e accigliato, generoso e taccagno, un elegantone e uno spaventapasseri, un gentiluomo e uno zotico, portato a eccessi di felicità e di disperazione, singolarmente capace di applicarsi e in grado di sciupare una vita intera perseguendo cose banali, urbano e sconveniente, gentile e crudele, tollerante eppure aperto alle più esagerate forme di bigotteria, un grande amico e un nemico implacabile, amatore e odiatore delle donne, delicato e osceno nel parlare, libertino e puritano, gonfio di superbia e ossessionato dal senso di inferiorità, reietto e arrampicatore sociale, malvagio e filantropo, barbaro e mecenate, innamorato delle novità e rigidamente conservatore, filosofo e sciocco, repubblicano e democratico, generoso d'animo e intollerabilmente meschino, distaccato e traboccante di impulsi di amicizia, bugiardo inveterato e incredibilmente rigido quando si tratta di quisquilie, avventuroso e timido, fantasioso e stolido, malefico e versore e piantatore di alberi il giorno della festa degli alberi. Te lo dico francamente, quell'uomo è un casino. Molto ben detto, Bruce, dichiarò Frederick. Credo che tu ne abbia fatto davvero un'analisi penetrante. Stavo parafrasando quello che Mark Shorer ha detto di Sinclair Lewis, rispose Bruce. Beh, è brillante lo stesso, notò Frederick. Credo che ora farei bene a tornare a casa. Un sonnellino ci farebbe bene a tutti, disse Bruce Wayne. A proposito, Frederick, come vanno le vendite del granello? Raccogli molti abbonamenti? Sì, parecchi, Bruce, disse Frederick. Ho avuto un successo particolare nei quartieri più ricchi di Gotham City, anche se il granello è forte soprattutto nelle zone agricole. A proposito, Dick, se vuoi che ti presti i miei dischi di lingue per esercitarti col francese, puoi venire a trovarmi domenica. Grazie, Frederick. Verrò senz'altro, disse Dick. Benissimo, Bruce, disse Frederick. Allora ci vediamo martedì prossimo, a meno che non succeda qualcosa.